Dios, c'è la folla che grida per te. Là nell'arena però non sei solo col toro, c'è la morte che danza con te. Con un sorriso starà sicura ad aspettar. Non importa per lei chi vincerà, una vita a seguire la dovrà verso l'oscurità. Appuntamento a Madrid col nemico di sempre, che rabbioso va in cerca di te. Appuntamento a Madrid con la stessa paura, che ritorna ogni volta da te. Momento della verità, ucciderà, una vita vorrà senza pietà. Momento di